Fucking hell. Attenzione al canale 10. Attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Attenzione adesso. Hola, c'è qualcuno su 10? Hola, attenzione 10. Hola? Attenzione al canale 10, brecco. Hola? Attenzione canale 23, ci ascoltate qua, CQ23, attenzione 10. Hola? Hola, attenzione canale 10. Hola, attenzione 10.